Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Non sono il migliore, è vero, lo ammetto e non importa. Porto avanti un sogno, se mi raggiunge lo aspetto. Se non lo fa lo rincorro, arriverà il giorno, arriverò in alto. O forse sbaglio, no, già così per me è un traguardo. Ringrazierò me stesso, non conta chi resta, ma resta chi conta. La gente che parla, manco con 100 lavatrici si lava la coscienza. Cercare un'emozione dentro il flusso delle ore, dare un bacio ed amare quando è spento il riflettore. Danzare sotto lacrime di fuoco, forzare il piede sulla terra come un terremoto. Se amo qualcuno non lo dico, sto zitto. Pure scrivo uno stato su Facebook così tutti lo sanno. Nelle strade c'è solo gossip, ma a noi cosa importa? In francese il nostro amore è formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis j'aurai, je suis célibataire. Et depuis hier, putain, j'ai pu pas faire l'enfant. Mais bon c'est pas, eh reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli courtois. Et un peu fort bourré. Et pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire. Vous mourriez vous hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Io ho dimenticato tutto ma mai te. Ho dato ciò che avevo fino a dare me. Ma adesso cos'hai da dire? Mi hai visto, vorresti cambiarmi come l'euro per le lire. Sono un signore per la mia educazione. Affogo in un bicchiere dalla disperazione. Motore, azione. Il fin della mia vita sarà comunque un successo. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Ci sarò per sempre anche da pezzente. L'amore non volere in cambio niente. Guardiamo l'orizzonte, non c'è descrizione, va oltre. Per la regina della mia corte adesso mi sento un re sottomesso ad un patto. Tutto questo avrà un finale, nonostante il nostro amore eterno. Mentre questo suono sapesse elevarmi, alle volte scrivo e mi sento Lopardi, rimembra. Come se fossi da solo, avessi 20 anni fissando da fuori alla finestra questo cielo distante che piange, lasciando sto senso di niente che resta incessante come l'attesa alle poste. È sembrato un testo biblico, vi lascio sempre in bilico. Inferno e paradiso, simoro. Certi giorni conto, io ce la farò. In questa vita che, nonostante tutto, è formidabile.